Stringiti alla mia mano, io la pace ti darò. Vedi brillare una luce nel cielo, da lei ti guiderò. Thank you.